Radio 24. Libera la voglia di fare. Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Kids with the pumped up kicks, you better run faster than my bullet. Occhio a Iago Falche. Iago Falche va col mancino ed è un gol pazzesco. Iago Falche 1-0 Toro. It never gets as he smokes a cigarette. Perisic la mette giù, De Silvestri su di lui, Perisic palla col mancino morbido verso Icardi e poi il piazzato di Eder per l'1-1, il pareggio dell'Inter con Eder. Direttamente in mezzo cieco, deviazione! Ha segnato Manolas! Ha segnato Manolas! Matuidi chiama il pallone, la palla va per Cuadrado! Che schiaccia in porta! Il pallone del 2-1, sorpasso Juventus! Allora, noi vi convochiamo, 800-24-0024, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Andrea Roccabella, Gianmarco Ferronato in regia, convocato soprattutto chi aveva avuto il coraggio di mettere Benevento vincitore nel primo tempo di Juventus Benevento. No, mi sembrano tutti argomenti interessanti ma interlocutori rispetto insomma, al vero della giornata. Come previsto, è finita anche questa settimana. Ho già vinto con Capuano. Passo in vantaggio 5-4. L'unica cosa che mi interessa è l'unica cosa, tra l'altro, io oggi sono qui. Ti ricorderai che avevo detto Sassuolo Milan, mi sa che era sbaglio. Tu mi hai detto, vuoi cambiare? Dico, no, non c'è bisogno che sto già avanti di 3. Allora, bambini, l'esito della schedina, poi tutto il resto, non lo so, più 3. Ha vinto Piera. Nettamente. Non lo so, vediamo. 5-4 per Pardo. È ufficiale, ragazzi. Allora, c'è qualcuno che avrà scommesso sul 2 del Benevento. A me poi ha vinto la Juve 2-1. C'è stato un momento in cui la Juventus perdeva col Benevento, Napoli e Roma erano incastrate nel pareggio, l'Inter il pareggio lo aveva già fatto alle 12:30 contro il Toro, la Lazio era negli spogliatoi perché pioveva, poi è uscito il sole, ma la partita è stata comunque rinviata. Insomma, nessuna delle prime 5 vinceva, facendoci gettare tonnellate di inchiostro speso per parlare del campionato in cui le grandi vincono sempre. Poi alcune cose sono tornate nell'ordine naturale, ad esempio la Juve ha vinto 2-1 col Benevento, c'è rimasto il Napoli però, che ha pareggiato 0-0 Verona contro il Chievo. A me ha fatto anche un po' impressione, e adesso aspettiamo anche la voce di Allegri da Premium Sport, vedere la Juve difendere sull'ultimo corner in casa contro il Benevento. Guarda, quando si vedono le partite a diretta gol o diretta Premium, a seconda di che piattaforma avete, si fa fatica ad avere un quadro completo e assoluto, questo va detto. L'abbiamo vista qui e... La mia sensazione del Napoli, ripeto, magari mi sbaglio perché le vedi tutte insieme, la mia sensazione del Napoli è che sia un po' stanco. Al di là di tutto mi sembra il tema fondamentale, ancora più dell'assenza di Goulam. Oggi si è vista una squadra un po' appannata lì davanti e quindi insomma in qualche modo quello che immaginavamo potesse succedere dopo l'infortunio di Milik, c'è sempre gli stessi che giocano, in qualche modo pesa. Detto questo, il Napoli in testa della classifica, insomma, rimane iper competitivo, però è un mini passo falso che in un campionato come questo, dove raramente le grandi perdono punti con le piccole, pesa. Sì, pesa. Tu lo definisci mini passo falso, io lo definisco un buon risultato. Considerate le condizioni. No, Pier, considerate le condizioni del Napoli con Mertens che si trascina una gamba, con Goulam fuori, con gli altri risultati, secondo me è un buon risultato per il Napoli. Allora, partiamo dalla voce di Allegri, che sta per passando i microfoni di Premium Sport. Allora, Massimiliano Allegri, dopo uno Juventus-Benevento più difficile del previsto, sottolineo che la Juve continua ad incassare gol, poi la ribalta, ma continua ad incassare gol, che è una delle sue caratteristiche di questa stagione. Allora, sentiamo Allegri. Oggi c'è da fare complimenti ai ragazzi perché siamo andati sotto nell'unico tiro, nella punizione che abbiamo subito nel primo tempo. E poi dopo sono state create molte palle gol, sembrava una partita stregata. Era importante mantenere la lucidità senza fretta, così è stato nel secondo tempo. I ragazzi poi l'hanno ribaltata, sono stati bravi. Poi dopo fatto 2-1 abbiamo concesso un paio di calci d'angolo a loro, soprattutto l'ultimo che è stato molto pericoloso e abbiamo rischiato qualcosa. Ecco, anche un'occasione di Ciciretti e poi quell'inserimento di quel tiro di Cataldi e l'inserimento di Ciciretti che l'hanno fatta arrabbiare, perché dopo il 2-1 ogni tanto capita anche quest'anno che ha dei cali di tensione alla Juventus? Perché si vede quando andiamo in vantaggio pensiamo che la partita sia finita, invece la partita finisce quando fischia l'arbitro. Vedere oggi non era semplice, non era semplice per come si era messa, perché al primo tempo sembrava che la palla, infatti è stato così, non riusciva a entrare. E poi queste partite dopo diventano complicate perché dopo non fai gol, ti innervosisci, invece ragazzi sono stati bravi al secondo tempo. Allegri che dispensa complimenti, secondo me mente. Secondo me questa sera Allegri va a casa arrabbiato. Secondo me è arrabbiato, l'aveva anche detto in conferenza stampa, sembravano parole di circostanza, in realtà invece è andata proprio così. Cioè la Juve veramente ha faticato, devo dirti la verità, che sull'1-0 insomma pensavo fosse molto più semplice, nonostante l'1-0 la vittoria della Juve. Non è stata semplice e soprattutto al di là del fatto che non ha realizzato 4-5 gol, c'è il fatto che nel finale ha rischiato qualcosa, ha rischiato su un paio di situazioni, sul tiro di Cataldi, su un paio di calci d'angolo pericolosi, insomma. Ma sinceramente non ha fatto fatica oggi, scusa Piero, tu hai visto un Inter col Torino e 1-1 con fatica e pareggio dell'Inter, sì, nel però finale. Ragazzi, il Torino il Napoli per il Benevento, no, Torino capito. È un'altra cosa, no, sono d'accordo, però oggi chi non ha fatto fatica? È vero, siamo in autunno, domenica di pioggia, la prima, sì, sì. Ci fermiamo per la nazionale, sì. Campi allagati, un sacco di infortunati. Io però Juventus-Benevento che non è partita in cui tu puoi fare fatica, no, Giovanni, esatto. Non puoi continuare, no, a subire gol. Nemmeno Chievo-Napoli dovresti fare fatica. Beh, per me quello del Napoli oggi è un buon risultato. La diverso, Roma diverso, ha fatto Chievo una squadra di metà classifica, giocava in casa, il Benevento ha 0 punti dopo 12 giornate, sono, ripeto, d'accordo, con tutto l'affetto, fra l'altro. Fammi dire questa cosa, ho visto un settore ospiti meraviglioso, adesso spero che tutto sia andato bene dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma ne sono certo, ho visto delle immagini, un settore ospiti di una squadra che ha 0 punti dopo 11 giornate, adesso 12, che va in massa, veramente complimenti, perché vuol dire proprio interpretare il senso dello sport e del gioco nella maniera più sana. Allora, abbiamo il traffico, così poi torniamo e ci allineiamo, aspettiamo anche le altre voci di allenatori. Io direi che i temi sono tre forse in questo momento. Poi nella seconda ora parleremo molto del Milan, in vista di Sassuolo-Milan, parleremo molto anche dell'Inter e di questo pareggio a San Siro contro il Torino. Però dal pomeriggio noi ereditiamo tre temi. Il primo è perché la Juventus non riesce a essere continua e perché non riesce a non incassare gol. Il secondo è, che forse è quello principale, se quella del Napoli è una crisi, poi vi diamo qualche numero, come li chiamava Gagliani, su questo piccolo segmentino di stagione, che è paurosamente per il Napoli simile a quello in cui l'anno scorso si giocò tutto ad ottobre. E il terzo tema è se la Roma è da scudetto, perché una squadra che vince facendo 4 gol a Firenze, il tema si può lanciare. 800 24 00 24, il traffico, torniamo subito. Convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, intanto saluto Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a voi ascoltatori, ciao a tutti. Allora, non so se hai avuto modo di sentire i temi che abbiamo lanciato prima del traffico, quale ti stuzzica di più? No, tutti e tre mi stuzzicano molto, insomma, anche quello se la Roma è da scudetto o no. Comunque, tutti e tre. È da scudetto o no? Beh, direi di sì, nel senso che una squadra che infila questa serie di risultati, che batte il Chelsea 3-0, rischia di qualificarsi da prima del girone di Champions, perché forse non riesce neanche agli altri, mi sembra che abbia delle qualità. Io continuo a pensare che Juve e Napoli abbiano qualcosa di più, anche se su Napoli, dopo l'infortunio di Goulam, che segue quello di Milik, francamente comincia a essere il conto pesante, per cui però la Roma è sicuramente tra le tre migliori del campionato. Sul Napoli io vi racconto che tra una sosta e l'altra, cioè tra l'ultima sosta e questa, su 7 partite è stato capace di vincerne solo 3. È vero che ha giocato 2 volte col Manchester City e una volta con l'Inter, però è anche vero che c'è una evidente frenata di risultati. Sì. Sì, che sì, ricorda molto da vicino le famose 5-6 giornate in cui dopo l'infortunio di Milik o comunque a cavallo di quel momento lì, l'anno scorso si giocò un po' tutta la stagione. È un po' presto, è un po' presto per, molto presto, per fare sì, questa diagnosi. Insomma, Napoli ha fatto un pareggio, il campionato ha fatto un pareggio oggi, ha perso col City che è forse in questo momento la squadra migliore d'Europa. Però indubbiamente il Napoli ha avuto già 2 infortuni pesanti in 2 ruoli, secondo me soprattutto quello di Ghoulam, dove non ha grandissime alternative. E quindi questi infortuni pesano, cioè pesa di più Ghoulam di Karsdorp, per dirti, perché la Roma lì comunque delle alternative ce le ha, perché Florenzi è tornato, perché Bruno Perez, che non è un fenomeno, però comunque è più affidabile di Mario Rui in questo momento, no? Poi magari Mario Rui diventerà meglio di Bruno Perez, però comunque ha uno storico migliore. Non so se vogliamo andare da Di Francesco intanto, che sta per parlare. Adesso poi andiamo anche da Di Francesco ai microfoni di Mediaset Premium. A te dà l'idea, direttore, che ci sia un accenno di crisi del Napoli? Voglio sapere la tua su questo, però, direttore. Secondo me, quello di oggi è un buon risultato per il Napoli, perché considerate le condizioni, considerato il fatto che Mertens non sta bene, lo sappiamo, Ghoulam si è infortunato, gli altri risultati con l'Inter che pareggia in casa col Torino, che è una partita che Pardo ha raccontato e poi ne parleremo, con la Juventus che fa fatica con il Benevento, è chiaro, la Roma fa un eccellente risultato a Firenze, difficile. Però, secondo me, il pareggio del Napoli oggi a Verona non è un risultato da buttare, nell'ottica complessiva. No, io non la penso come te, penso che siano invece 2 punti persi, perché questo è un campionato che si gioca sui pochi punti che si perdono, certo, contro le altre, diciamo, 12-13 squadre del campionato, e si gioca in gran parte appunto negli scontri diretti. Per cui quando perdi punti, e anche con squadre molto volenterose, insomma, come il Chievo, però stanno essendo punti persi. E sono d'accordo con Pierluigi, secondo me l'infortunio di Ghoulam è pesantissimo. Oggi che ho visto la partita del Napoli, l'ho visto per larghi tratti, il Napoli continua a giocare al 70-80% sulla sinistra, perché è nata, concepita questa nel DNA, e però non avere Ghoulam lì è un cambiamento molto molto forte, per cui credo che il Napoli debba assolutamente tornare sul mercato, paradossalmente più per cercare un vice Ghoulam che un vice Milik. Sì, magari si poteva anche immaginare prima, o perché tanti tifosi del Napoli anche nelle scorse settimane dicevano: attenzione, è vero il progetto, è vero la scelta di confermarli tutti, però alla fine questa squadra è stata costruita corta, troppo. Penso di sì, penso che per carità, infortuni così gravi non si possono mettere in conto, però può pensare che in una stagione con una Champions così impegnativa, con la Coppa Italia eccetera, ha bisogno di soluzioni molto più ampie, e soprattutto in alcuni ruoli il Napoli è abbastanza scoperto. Il Napoli secondo me è ricco abbastanza e sufficiente, forse anche più della sufficienza al centrocampo, sì, ma in difesa e in attacco è molto corto. Sì, soprattutto al centrocampo ha delle gerarchie flessibili, nel senso che ha 6 giocatori per 3 maglie, dove appunto le gerarchie sono variabili di partita in partita, dipende dalla condizione. Davanti ha delle gerarchie invece molto precise, l'infortunio di Ghoulam pesa, insomma, c'è poco da fare. Ti dico che pesa di più secondo me l'infortunio di Ghoulam di un eventuale infortunio ad Albiol, faccio per dirti, perché lì secondo me il Napoli comunque un equilibrio l'ha mostrato anche le volte in cui non c'era appunto uno tra Koulibaly o Albiol. Allora abbiamo Di Francesco i microfoni di Premium Sport, lo sentiamo dopo sì, Fiorentina-Roma 2-4. Gol per la prima volta fuori casa, è stata una partita bella, vissuta ad alta intensità, in particolar modo nel primo tempo, dove noi sembravamo avere a momenti la partita in mano e poi abbiamo preso gol. E la Fiorentina ha avuto grande forza, grande merito alla Fiorentina per quello che ha messo in campo. Sapevo che dovevano fare una partita di rabbia per il fatto che venivano da una brutta sconfitta a Crotone. Ritengo che sia una buona squadra e vi assicuro che non è facile mai vincere in questo campo. Lo abbiamo visto anche perché è stata una partita spettacolare ma anche equilibrata, però questa squadra mentalmente sembra sempre avere un colpo in più rispetto agli avversari, anche se subisce gol, anche se va un po' in affanno, gioca tranquilla perché sa che poi alla fine qualche cosa succede, ed è successo oggi con una vittoria larga. Devo dire che abbiamo ricominciato il secondo tempo con un'altra idea, perché dopo che abbiamo fatto gol ci siamo un pochino abbassati. Dal mio punto di vista non lavoravamo più bene nella fase difensiva come blocco squadra, invece è quello che ci ha portato a questi grandi risultati. Abbiamo abbassato un po' l'attenzione che ha permesso a loro di fare qualche gol, sulla nostra ingenuità, ma come magari quelli che abbiamo fatto noi su loro. E per quello le squadre che sono più attente alla fine portano a casa determinate gare. Avevo paura di questa trasferta perché venivamo da una grandissima vittoria contro il Chelsea e pensavo una squadra un pochino appagata, invece ho avuto ugualmente delle risposte importanti, nonostante siamo andati un po' in intermittenza, in particolar modo nel primo tempo. Sì, questo è un dato importante, credo, che segnala Di Francesco, cioè molto spesso a Roma dopo grandi vittorie sono arrivati cali di tensione. Guarda, dopo le due partite col Chelsea la Roma aveva le trasferte col Torino e con la Fiorentina, erano due partite complicatissime. Quella di Torino, fra l'altro, aveva una serie di assenze pesantissime. Quella di oggi, comunque, è in un campo storicamente complicato. Insomma, io sulla Roma, adesso non è che voglio autocitarmi, è da un mese che ho buone sensazioni. Nel senso che poi, secondo me, sulla Roma c'è una... Siamo stati, mi ci metto anch'io, tutti un po' condizionati dallo scarso entusiasmo che c'era, dall'ambiente. Insomma, la Roma è più forte dell'anno scorso o no? Pier, direttore, Carlo, facciamo un giro. È più forte o no dell'anno scorso? Comodamente in centro. No, è più forte o no dell'anno scorso? L'anno scorso è stata una squadra da 87 punti. Può diventare più forte l'anno scorso? Direttore? Al momento assolutamente no. C'è un allenatore che secondo me è stato bravissimo fino adesso, che gli ha dato stabilità, serenità, continuità, che ha rivalutato alcuni giocatori che l'anno scorso a un certo punto erano completamente scomparsi. Cioè i due gol di Gerson oggi sono dello stesso giocatore che l'anno scorso da gennaio in poi non si è più visto in campo. Cioè non è che ha giocato poco o male, non si è più visto, è stato completamente sparito. O Di Perotti, un altro che da febbraio in poi l'anno scorso anche lui era sparito, non si sa per quale motivo. Per cui secondo me Di Francesco è stato fino adesso bravissimo, perché con una squadra che ha un Kolarov in più, però Salah, Rudiger e qualche giocatore in meno, sta facendo molto bene, rivalutando, ripeto, quei giocatori e dando fiducia ad altri giocatori. Per dire, il portiere Alisson, che era già lo scorso anno, però la Roma si era battuta a tutti i costi per avere Szczęsny, perché evidentemente il tecnico l'anno scorso non aveva fiducia in Alisson. No, mi sembra che Di Francesco... l'avevamo un po' sottovalutato, Di Francesco, ma tutti, io credo per primi tifosi della Roma. Io mi dissocio da questo, perché Di Francesco io non lo sottovaluto mai. Sì. Però neanche io. Perché neanche no, ma io. Perché... Però, ragazzi, inizio campionato. Sì, sì, insomma, ho capito. Però, l'idea che ci fosse io passaggio mi da uno come Paletta a questa roba, l'ho detto 100 volte... applicando il criterio Sarri, cioè io dicevo e oggi rivendico questa cosa qui, che Di Francesco nella sua carriera pre-grande squadra, quindi a Sassuolo, ha fatto bene almeno come ha fatto bene Sarri ad Empoli, quindi almeno da questo punto di vista dovevamo scoprirlo. Sono d'accordo con Bucarelli. La Roma è più forte l'anno scorso? Al momento no. È chiaro che la scommessa di Francesco, una delle tante su cui era fondata questa Roma, può essere vinta, è sulla via per essere vinta, però se mi chiedi la Roma è più forte dell'anno scorso, la risposta è no. È chiaro, sta facendo un eccellente campionato. Perché questo però accresce i meriti dell'allenatore. È chiaro, direttore. Anche perché l'anno scorso di questi tempi la Roma era già andata fuori dai preliminari di Champions League, e la Roma di questi tempi invece di Francesco è in corsa per arrivare prima nel suo girone. Per assolutamente. Cui ma la Roma ha vinto anche questa tappa di campionato. Guarda, fatemi fare una domanda cattiva al direttore Vocalelli, perché io ho capito che questo paragone lo stuzzica. Sta facendo meglio Di Francesco con la Roma oggi o Spalletti con l'Inter? In questo momento, prime 12 giornate. Beh, sta facendo nettamente meglio Di Francesco, perché Spalletti sicuramente sta facendo bene, discretamente bene con l'Inter, però è pure vero che l'Inter è la squadra che non a caso gioca sempre, quasi sempre con la stessa formazione, perché ha il vantaggio straordinario di non avere impegni durante la settimana, per cui è chiaro che guadagna punti e ha la possibilità di sfruttare questo. La Roma passa giustamente da una vittoria col Chelsea alla trasferta di Firenze, facendo 7 gol, vincendo 2 partite del genere, vuol dire che in questo momento il cammino è molto, molto più difficile, per cui se stanno là vicino in campionato, nel frattempo la Roma, ripeto, è in testa al suo girone di Champions, mentre l'Inter non ha le coppe, mi viene a dire che Francesco sta facendo in questo momento meglio. Non vuol dire che alla fine magari farà meglio Spalletti, però a oggi è giudizio. Poi sinceramente, ragazzi, sono stato a Roma in settimana, c'è un'altra aria dal punto di vista ambientale, nel senso che Spalletti, che per me rimane un grandissimo allenatore e secondo me lo sta dimostrando all'Inter, però quella situazione lì che si era creata, che lui secondo me nella prima parte aveva gestito benissimo con Totti, perché aveva vinto lui, io ribadisco, secondo me aveva vinto lui, poi non ho capito perché da gennaio in poi invece si è dovuti tornare su questo tema. Insomma, oggi la Roma ha una serenità ambientale, ha una serenità di ambiente, di squadra, con questo Monchi che è una specie veramente, sembra un santone, un personaggio straordinario che ha acquisito credibilità agli occhi dell'ambiente. Poi come sempre i risultati contano tanto. Ci chiedono al 349-238-6666, se lo chiediamo al direttore, lo chiedo proprio a lui, se era giusto rinviare Lazio-Udinese. Beh, non ho seguito nello zapping, non ho capito esattamente, però vivendo a Roma ti posso dire che veramente tra le due e mezza e le quattro c'è stato il mondo, per cui se il campo poi non dava garanzie eccetera eccetera, penso che però poi ha smesso, un po' colpito alle 4 e 5 vedere volevo un po' sfruttare tipo meteo 24, scusami, questo utilizzo. Poi ha smesso di piovere. Sì, poi ha smesso, però è pure vero che non so come era ridotto il campo. Comunque, diciamo, meglio così per l'Italia, perché avrebbe giocato Immobile, certo. In condizioni, diciamo, come si dice a Roma, mezzo-mezzo, no? Nel senso che non stava in grandi condizioni, e avrebbe giocato su quel campo, che era un campo comunque pericoloso, e Immobile è invece un'arma decisiva come per l'Italia. Come hai visto Belotti? Sì, Belotti... Perché Mihajlovic, poi lo sentiremo, ha detto che non sta bene. Appunto, ancora di più, quindi la presenza di Immobile che sia meglio è un vantaggio per il movimento, perché se non andiamo al mondiale è un problema grosso. Qualche problema ce l'abbiamo tutti. 60-70%, dai, ripresa. Però Belotti secondo me non ha fatto una cattiva partita. No, assolutamente, ha fatto partita di grande sacrificio. Che tornava dopo un mese. Ci dobbiamo fermare, grazie al direttore Alessandro Vocalelli. Ciao direttore, ciao, ciao, un abbraccio. Facciamo veloce Aldo da Pisa, 800-24-0024, Aldo. Buonasera dottor Genta, sì, buonasera Gregi. Senta, mi dispiace se c'è poco tempo, però volevo dire che lei chiaramente ancora una volta ha avuto ragione. Su che? Nei suoi pronostici, nel senso che il Napoli si è scontrato ancora una volta contro una squadra con un monte ingaggi ben diverso. Sì, lasciamo stare, ma sì, lasciamo stare molti ingaggi, l'estratto contro non va in campo. No, sto parlando delle ragioni di Sarri, giustamente. Non... Forse è una cosa ironica nei confronti di Sarri, okay. Oggi il Napoli doveva vincere. Nel senso che il Napoli doveva vincere, anche l'Inter doveva vincere, anche la Juventus doveva vincere in maniera più semplice. Però Carlo, che il Napoli oggi ha perso due punti pesanti. Pierluigi, il Napoli... ha perso due punti pesanti, va bene. Il Napoli viene dalla partita con il City, non sta bene in alcuni suoi uomini cruciali. Io non riesco a considerare negativo il risultato del Napoli. Poi è chiaro che in questo campionato c'era solo la sconfitta. No, ho capito, però in questo campionato devi battere il Chievo, devi vincere la Verona, devi vincerle tutte. Sono d'accordo, però anche l'Inter doveva battere il Torino, soprattutto condizioni. Infatti non credo che i 71.000 di San Siro oggi siano tornati a casa felici, al di là del fatto che secondo me, comunque, con tutto rispetto per il Chievo, il Torino in certe situazioni è a un livello più Torino alto. Torino oggi ha fatto una partita tosta. Il Chievo è una squadra organizzatissima, quindi tosta. Merita proprio grande rispetto a prescindere. Dobbiamo fermarci. Guarda che il paragone del direttore Vocalelli, Spalletti di Francesco, sta facendo discutere. C'è chi ricorda dove stava l'Inter l'anno scorso in questo periodo. E quindi che Spalletti è un genio. C'è chi dice guardate che la Roma ha vinto tre partite 1-0 a Crotone. Ma sai, insomma, il ragionamento era meglio di Francesco Spalletti. Ma in quelle partite non ha rischiato mai, ha fatto una parata Alisson su Masina in Roma-Bologna, e guarda che questo è un vantaggio, perché la Roma ha vinto quest'anno, non solo la Roma, anche altre squadre, ha vinto delle partite quasi senza giocare, quindi risparmiando energie. C'è stato per esempio quel trittico lì quando era in crisi con Verona, Benevento e Udinese, che ha vinto tre partite praticamente come fossero tre partite del giovedì, quindi attenzione, io credo che la Roma abbia tanto talento, proprio tanto, lo penso da un po', e considera che non abbiamo visto Karsdorp, che non vedremo, e non abbiamo ancora visto Schick. Cioè, Schick è un altro che, anche semplicemente, anche qualcuno entrando che nelle rotazioni... Di Francesco a cambiare alcune cose. Siamo però lunghissimi, lunghissimi. Andiamo. Un minuto, adesso? Torniamo, è iniziata intanto Chelsea e Manchester United, 0-0, il City ha vinto 3-1 con l'Arsenal... c'è il meteo, quindi il meteo c'è. Sappiamo che tempo fa Roma. C'è il meteo alle 17:30. Piove ovunque. Piove. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Tutti convocati. Grandi discussioni, eh? Allora, 8-0-0-24. Sì, sì, ognuno aveva il suo cavallo di battaglia. Il mio è: quante partite ha dominato l'Inter dall'inizio della stagione? Ha dominato con la Sampdoria, con la Fiorentina, Bratti, con la Fiorentina per un tempo. Che vuol dire? E poi credo basta, ma l'Inter non è costruita per dominarle. Esatto. L'Inter, secondo me, oggi ha fatto una buona partita. È giusto che abbia pareggiato, perché poi in una stagione ci sono partite che giochi e magari non meriti fino in fondo di vincere e vinci, ci sono partite che giochi e non meriti fino in fondo di vincere e le pareggi, magari qualche volta capita anche che le perdi. A proposito, su Premium ci sono i numeri di Chievo-Napoli. Napoli 73% di possesso di palla, 17 tiri a 3, 9 calci d'angolo a 2, 830 passaggi a 295. Però non vuol dire un po' niente. Di stanchezza. Allora spiegatemi, no? Perché l'Inter ha fatto una buona partita, un buon risultato, e il Napoli invece a Verona. No, per me l'Inter non ha fatto una buona partita, però voglio dirti quello che... Allora, perché è inaccettabile il risultato del Napoli a Verona? Nelle condizioni attuali. Innanzitutto, io credo che il Napoli sia più forte dell'Inter ad oggi. Anch'io. Quindi, secondo me, Napoli e Inter sono di due categorie diverse. Poi è chiaro che il fortuno di Gulam cambia le cose. C'è già stato gol di Milik. Però io penso che il Napoli abbia qualcosa in più dell'Inter e abbia anche, secondo me, un filo di pressione in più addosso. Non deve vincere il campionato, nel senso che poi alla fine la favorita all'inizio della stagione secondo me rimane sempre la Juve. Però comunque, insomma, il Napoli è stata costruita e sembra essere arrivato a un livello di maturazione tale per cui non si può tanto tirare indietro nella corsa a scudetto. Allora io saluto Pierpaolo Barino. In fuga. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Ti ricordo dire del Napoli: sarà fondamentale la gestione della prima sconfitta, del primo momento difficile. E io credo sia arrivato, al di là del fatto che poi, se tu perdi due partite con il Manchester City, perdi contro la squadra forse in questo momento più forte d'Europa. Se pareggi con l'Inter ci può stare, poi però pareggi a Verona e ci può stare per altri mille motivi. Però alla fine la somma di tutta questa cosa qui è che tu hai cominciato a correre un po' meno veloce. Io non so che impressione ti ha fatto oggi il Napoli. Sì, il Napoli ha un po' di stanchezza, bisogna essere corretti nel dirlo, però parliamo di Inter, di Napoli, cioè questo è un campionato che sta viaggiando a delle medie mostruose in vetta e prima o poi qualche pareggio deve arrivare, perché sennò questi qui farebbero i record del mondo, della storia, della Serie A, e quindi... tutto sommato ci può anche stare il pareggio del Napoli. Quindi è un buon risultato secondo te, visto tutto, visto il contesto? Non è un buon risultato assolutamente, però nell'arco però delle partite può capitare di questo, sì, può capitare, cioè non dimentichiamo che l'anno scorso il Napoli ha pareggiato in casa col Palermo. Cioè quest'anno meglio che capiti a Verona col Chievo, sì, però siccome su questo pareggio poi ci resterà Sarri per primo per due settimane, perché adesso c'è la sosta e sono risultati Napoli che pesano, cioè nella testa che cosa lascia il campanello d'allarme che possa andare ad esempio come l'anno scorso, dove poi alla fine tu fai quei 7, 8, 9 punti in meno che ti tagliano fuori da tutto e quest'anno i presupposti di partenza sono diversi? Oppure tu lo puoi archiviare leggendo i numeri che hai letto prima a Pierluigi, dicendo: dominato, stavolta è andata così e altre volte andrà meglio? No, sai che lascia nella testa, più che come l'anno scorso, come due anni fa. Il Napoli campione d'inverno e poi ha cominciato a fare dei mezzi risultati. La squadra a gennaio non è stata rinforzata adeguatamente, fin quando l'autostima è calata, e quando l'autostima di una squadra cala non si vince lo scudetto. Allora, domanda, Pierpaolo Marino, direttore generale del Napoli, ecco. Che farebbe? Diciamo che c'è un budget, perché sicuramente Laurentiis un budget a gennaio lo darà, anche l'anno scorso ha fatto un investimento, non sicuri? Va dimenticato. Non è che De Laurentiis, lo sappiamo, anche Laifi, sicuramente, non è Abramovic, ma è uno che i soldi della squadra l'ha messi, se no, secondo me, diventiamo... Allora, che faresti? Diciamo, hai 20 milioni di budget. 20 milioni di budget. Allora, innanzitutto aggiungo centimetri a questa squadra. perché il grande problema del Napoli, che è cominciato dopo la mezz'ora bellissima col Manchester City, con l'infortunio di Ghoulam, è che per la prima volta da un infortunio è stata intaccata la forza fisica, la forza più importante del Napoli, che è la catena di sinistra. Cioè il Napoli vive da quando è arrivato Sarri soprattutto sulla forza di quel settore della squadra composto da Ghoulam, Hamsik e Insigne. Con l'infortunio lì il Napoli è un po' mutilato. Oltretutto con l'innesto di Mario Rui, che oggi non ha fatto neanche malissimo, insomma niente d'eccezionale, però ha fatto una buona partita, calano ancora i centimetri del Napoli e questa squadra non ha fisicità, e infatti in Champions League prende gol su palle inattive, ma anche in campionato qualche volta, perché Sarri, per quanto marchi a zona, non trova i centimetri per fare le marcature, cioè anche nelle zone di competenza, non sto parlando uomo contro uomo. E allora io aggiungerei centimetri a questa squadra, bisogna prendere un terzino sinistro, ma non bisogna prenderlo basso. Ok, quindi prendiamo un giocatore di basket che però giochi a sinistra. Ma quindi scusami, tanto per essere chiari, no, però, l'investimento però per Mario Rui. Però Masina i centimetri li ha, per esempio, dico, e non è proprio è nell'ottica di un Napoli, delle scelte del Napoli degli ultimi anni, giustissime secondo me, è anche un giovane che in prospettiva può durare almeno 6-7 anni. Quindi Masina, andresti a bussare per Masina. Ma sicuramente, poi bisogna prendere una punta di sfondamento che costituisca l'alternanza Mertens per partite in cui devi sbloccare nell'ultimo quarto d'ora, nell'ultima mezz'ora con la forza fisica. Ma Duván Zapata poteva trovare più spazio in questi anni. Fai un nome. Duván Zapata, ormai non lo vende più. Fai un nome. Sì, anche Strinic serviva, a dire la verità, insomma, non si capisce perché abbiano dato via anche Strinic, perché Strinic era uno. Noi sappiamo che Sarri vuole sempre istruire i giocatori giustamente per il suo modulo prima di utilizzarli, quindi i giocatori che arrivano a gennaio possono avere problemi, certo. Però Strinic era già istruito, quindi ad esempio secondo me andava tenuto, e così come Zapata avete detto giustamente. Inglese non ha proprio quella fisionomia là, anche se dovesse anticipare il suo arrivo a Napoli. È comunque una punta di sfondamento. Sì, non è una punta di sfondamento. Io sono d'accordo, ma no al 100%, al 200%. Sì, io però poi penso che Pierpaolo Marino, che adesso salutiamo, direttore generale del Napoli, dovrebbe chiudersi in una stanza con Sarri e dirgli: ma se io te ne compro due con queste caratteristiche, qualche minuto glielo fai fare o no? Perché altrimenti finisce come Pavoletti, che spendi 18 milioni di euro. Regini, esatto. Perché il Napoli, non il problema è che il Napoli è andato vicinissimo allo scudetto due o tre anni fa, come volete dirli voi, se contate o meno sto campionato qui, quando fu campione d'inverno e arrivò a febbraio allo scontro diretto con la Juve, prima in classifica, e lì toppò quella partita, ricorderete benissimo, col gol di Zaza che era subentrato. Non la toppò nemmeno tanto, fu anche un po' sfortunato, era una partita 0-0, perse. Poi dopo andò a fare risultati che erano frutto della disistima, dell'autodisistima che subentra poi, e quindi la paura di perdere tutto. Però con Sarri ti devi chiudere sempre, e chiaramente bisogna anche cercare di prendergli giocatori già pronti e non giovani di prospettive, ma sì, anche se giovane secondo me è un giocatore che ha già un curriculum, ha già una consistenza, e certo può, a gennaio essere, può non essere si anche trovano investimento. Sì, non si trovano i giocatori che cambiano le squadre, che cambiano magari le stagioni, però abbiamo tempo da qui a gennaio. Intanto c'è la sosta, grazie per Paolo Marino. Ciao direttore. Ciao, direttore, ciao, grazie. Ciao. Alla prossima, ciao. Abbiamo il traffico. Allora io vi annuncio, dopo le 18, un'indiscrezione clamorosa che riguarda la panchina del Milan e che viene da Londra. E sta per arrivare Sarri? Sì, sta per arrivare Sarri. Allora, il traffico, poi ripartiamo da Maurizio Sarri. I love this game. Tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Tutti convocati. sono arrabbiato. Non so cosa intendete voi per prestazione. Abbiamo fatto, dal punto di vista tattico, una partita straordinaria, sempre corti, compatti, senza concedere niente, mai una ripartenza agli avversari. Siamo arrivati all'ultima partita di questo ciclo e con un pizzico di brillantezza in meno, e questo ci è costato i punti. Abbiamo fatto fatica a saltare l'uomo, a creare situazioni contro una squadra chiusa come era chiuso il Chievo oggi, senza un guizzo individuale era difficile venire a capo della situazione. Se poi una squadra si permette anche di tenere 5 giocatori in terra, 5 ingressi dei massaggiatori per 3 minuti l'uno, non si fa un bel servizio al calcio italiano. Quindi insomma anche l'ostruzionismo, dice lei, del Chievo che ha visto oggi in campo, forse è la cosa un po' da biasimare di più di questa giornata. No, il Chievo fa quello che deve fare, e c'è qualcuno che è pagato per non permetterlo, e quindi mi piacerebbe non fosse permesso, però il Chievo ha fatto tutto quello che doveva fare, e se abbiamo pareggiato non abbiamo neanche pareggiato per questo, abbiamo pareggiato perché oggi ci è mancato nei giocatori, e solitamente ci saltano l'uomo e ci creano situazioni, un pizzico di brillantezza. Allora, studio. Questo Sarri, saluto subito Stefano Colantuono, ciao mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. La messa lì, Allora, partita straordinaria del Napoli dal punto di vista tattico, scarsa brillantezza, costa 2 punti, serviva un guizzo individuale, questo magari può richiamare a quello che facevamo prima come ragionamento con Pierpaolo Marino sul mercato e la necessità anche di qualche alternativa, anche tatticamente diversa, e poi insomma la messa lì sull'ostruzionismo del Chievo. Noi ci stiamo dividendo, Stefano, se sia questo un buon punto comunque alla fine, perché le giornate così capitano, o se il Napoli abbia buttato via 2 punti importanti. Ora non lo so, io la partita non l'ho potuta vedere perché ho seguito la Roma per tutta la gara, però dal commento di Sarri sembra che abbiano fatto una buona partita. Poi è chiaro, Chievo è nettamente inferiore e cerca a gioco forza di magari anche con un po' di ostruzionismo di portare a casa il risultato. Giusto che sia, questo è pretestuoso, Stefano, lo sappiamo bene, questa argomentazione di Sarri è pretestuosa, però io dico, considerate le condizioni del Napoli in questo momento, lui, Sarri, parlava di fine di questo miniciclo, è chiaro che il Napoli per vari motivi è arrivato qui un po' sui gomiti nei giocatori chiave, quindi secondo me il pareggio di oggi a Verona non è da buttare nel cesso. No, affatto, perché Verona, in questo caso Chievo, è sempre un campo molto difficile. Chievo negli ultimi anni ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, ha dato fastidio a tutti, quindi non c'è da meravigliarsi per questo pareggio, specialmente perché questo pareggio arriva alla fine di un mini tour molto molto impegnativo per il Napoli, direi, e quindi ci può anche stare. La Roma che hai visto oggi gioca per lo scudetto? Sì, la Roma gioca per lo scudetto, perché sta dando dimostrazione di essere una squadra matura, cambia giocatori, ma la sostanza è sempre la stessa, perché Di Francesco attua sempre un turnover abbastanza importante. Primo tempo equilibrato, anzi forse la Fiorentina poteva anche chiudere in vantaggio il primo tempo, ha avuto un'occasione, però è stato equilibrato il primo tempo. Nel secondo tempo la Roma è uscita in tutta la sua attuale grandezza, con giocatori, poi Nainggolan oggi strepitoso, veramente veramente molto bello. Sì, credo che 3 gol su 4 siano nati dai suoi recuperi sulla tre quarti. Sì, impressionante. Vista un po' con la coda dell'occhio, però mi pare di aver visto 3 gol su 4. Adesso c'è una partita, quando torniamo dalla pausa, che è veramente lo spariglio. Chiaro. Perché il derby è la partita fra due squadre romane praticamente perfette, che stanno facendo un percorso veramente virtuoso, e è chiaro, è la classica partita che può, per quanto pesa, per il fatto che è uno scontro diretto, e sappiamo quanto pesino gli scontri diretti in questo campionato, oltre che per tutti gli aspetti psicologici che a Roma ovviamente sono così importanti, di incanalare tutto da una parte o dall'altra. Visto che ci siamo al volo, Pardo, l'Inter che hai raccontato oggi, faccio la parafrasi di Capuano, corre per lo scudetto? Ma io continuo a dire quello che dico dall'inizio, cioè l'Inter ha il vantaggio che non ha le coppe, ma se non cresce come qualità del gioco, secondo me non è da scudetto, e oggi è la dimostrazione. Poi oggi ha pareggiato, poteva vincere con la traversa di Vecino, poteva anche perdere. Io ripeto, ribadisco, le volte in cui ho visto questa squadra dominare in questo campionato sono 2, massimo 3, con la Fiorentina la prima giornata e nemmeno per tutti i 90 minuti, diciamo ha vinto bene con la SPAL, pur insomma senza brillare, e ha fatto 70 minuti fantastici con la Samp, rischiando nel finale. Tutte le altre partite dell'Inter, Benevento, Crotone, tutte le altre partite l'Inter le ha vinte con i nervi, con la grinta, con la voglia. Sono qualità importantissime, però non sono le qualità di una squadra che domina il campionato e che lotta per lo scudetto. Stefano? Ok, perfetto. Allora, la Roma è da scudetto, l'Inter non è da scudetto. Questo è quanto. Diciamo, io non sarei sorpreso se la Roma arrivasse davanti all'Inter, ma lo dico da qualche settimana, non sarei sorpreso. Poi ogni partita ci può smentire, per carità. No, ma la disegna di Pierluigi ci sta, ci mancherebbe, perché in effetti poi l'Inter in qualche partita non ha stradominato. Però per esempio io ricordo la partita con la Roma, dove la Roma partì bene, la mise in grossa difficoltà, però poi dimostrò di essere squadra. Sì, ma sono queste squadra, qualità. Sono qualità queste che servono per arrivare in fondo. È chiaro che qualcosa deve migliorare, però è anche un progetto estremamente tutto nuovo. Sono avvantaggiati perché so benissimo cosa significa non disputare le coppe e allenarsi tutta la settimana, specialmente con un allenatore come Spalletti che chiede determinate cose, e dovrà crescere. Però è lì, pensiamo quando l'Inter avrà raggiunto il top, diciamo, cosa potrà fare, perché se in un momento di crescita è comunque lì a ridosso delle prime, io penso che l'Inter sarà protagonista in questo campionato, come probabilmente lo sarà. Però ha avuto anche un grande vantaggio. Io ricordo che credo questa sia stata la quarta partita di Miranda diffidato. Non ha preso il oggi, cartellino, fra l'altro, ragazzi, Gagliardini e giocherà. Gagliardini, arbitraggio ottimo, però Gagliardini diffidato, proprio da giallo. E oggi qualche giallo l'avrebbe meritato. Abbiamo meno di un minuto, 50 secondi. Voglio approfittare di una cosa con Stefano Colantuono, così chiudiamo il discorso, perché dopo parleremo dell'Inter, ma chiudiamo il discorso sulla Roma. Cioè, in tutto questo, oggi Schick è un problemino per Di Francesco, quando rientrerà, se rientrerà, perché è evidentemente un giocatore diverso da quelli che ha oggi. È un problemino perché non ce l'ha, secondo te, perché l'hanno pagato 40 milioni, credo, e purtroppo non c'è ancora. Questo è un problema, perché Eusebio Di Francesco ha dimostrato di saper far ruotare benissimo i giocatori, hanno giocato tutti nella Roma, quindi io credo che Schick sia una risorsa. Il problema è che purtroppo non c'è. Anche se dovrà cambiare qualcosa, perché è un giocatore diverso da quelli che ha oggi. Su questo credo sia incontestabile. Questo è vero, ci può stare, però che può cambiare qualcosa. Posso Sharawi, Però secondo me poi si adatterà, oppure potrebbero cambiare. Guarda che oggi la Roma inizialmente faceva lavorare Nainggolan e spesso su Badri, quindi era quasi un 4-2-3-1 più che un 4-3-1. Esonerato Juric, vai a Genova. Qualcosa. Allora, esonerato Juric, va Ballardini. Ha già scelto l'allenatore. L'abbiamo detto. Grazie Stefano, siamo sotto GR. Ciao, l'abbiamo data in diretta, 800-24-0024. C'è una cosa clamorosa, una voce clamorosa sul Milan. Ve la diamo dopo il GR. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. Si gioca a Bergamo 0-0 tra Atalanta e Spal, settimo minuto. Si gioca a Londra 0-0 tra Chelsea e Manchester United, 39esimo minuto del primo tempo. Il City ha battuto 3-1 l'Arsenal. Allora, 800-24-0024, dopo il traffico vi diamo questa clamorosa indiscrezione che riguarda la panchina del Milan, che viene da Sky, e poi ne parliamo perché stasera è una serata importante anche per il Milan. Prima però andiamo a cascata, Renato, Paolo e Roberto. Renato, dai. Io vorrei intervenire sulla nazionale, sì, per dire che siete un po', diciamo, allineati e politically correct, nel senso che secondo me il dramma sarebbe qualificarsi ai mondiali. Addirittura. Perché in Italia, se non abbiamo lo spread a 500, non facciamo interventi drastici come invece sarebbero necessari. È solo uno schiaffone di quel tipo potrebbe forse aiutare a fare ripartire un movimento e a portare quei cambiamenti che sono indispensabili, perché sennò andiamo semplicemente incontro alla terza eliminazione al primo turno, a coppe dove si fanno i comprimari. Sfattismo allo stato puro. Io penso che l'Italia meriti il mondiale a prescindere da tutto, anche da come si è comportata nell'ultimo anno e mezzo in campo la nazionale di Ventura. La Spagna meritava di più e ci va, e noi passiamo dagli spareggi. Speriamo. Mi sembra però che non è che poi il nostro calcio faccia così pena. No, anche no. Quello che ci sta raccontando, ad esempio, la Champions di quest'anno, l'Europa League, insomma. Ma noi non eravamo abituati a battere il Chelsea come ha fatto la Roma questa settimana dopo una grande partita anche a Londra. Sì, non è tutto da buttare via. No, io sono d'accordo con te. Cioè, io penso che noi siamo in ripresa, non siamo una potenza come eravamo negli anni 90, ma siamo, secondo me, messi meglio rispetto a 2-3 anni fa, questo a livello di club. E a livello di nazionale io penso che Ventura sui giovani, o meglio, diciamo, i giovani sono cresciuti. E oggi noi abbiamo delle luci che si stanno accendendo nel nostro calcio. Poi non abbiamo ancora la squadra fatta e finita. Io al mondiale ci voglio andare. Voglio andare, sono convinto. Dai, che fra l'altro non è detto che se andiamo al mondiale usciamo al primo turno. Mi sembra sì, un po' disfattista il ragionamento. Poi che abbiamo fatto orrore al Bernabeu, non c'è dubbio che la tendenza di quest'anno e mezzo con Ventura purtroppo è una tendenza al peggioramento. Cioè, siamo partiti meglio di come abbiamo chiuso e quindi sono preoccupato per l'Italia Svezia, questo è evidente, però insomma, non è che. E poi comunque un girone con Spagna e Italia è un po' la stortura. E poi no? Che fanno in ginocchio sui ceci, no, a guardare i mondiali in ginocchio sui ceci. Paolo, vabbè, dalla provincia di Ravenna. Paolo. Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti a Pier per il vantaggio meritatissimo. Grande. Va bene, passiamo. Roberto da Milano. Ascoltiamo. Roberto da Milano. Per favore. Non avete ancora parlato del derby di ieri sera, di una Sam sesta, 23 punti in classifica. Hai ragione. E io spero di rubarvi l'indiscrezione. Conte. Conte per l'anno prossimo, ma la diamo dopo, non farci rubare in discorso. Conte in questo momento è a Stamford Bridge al 42esimo, 0-0 tra Chelsea e Manchester United. E io posso regalarvi un virgolettato che non significa nulla, che l'altro giorno uscendo da Roma-Chelsea c'è un lungo tunnel che è quello dal quale escono poi le squadre, si arriva ai pullman. E insomma, gli ho detto non mollare, mi raccomando. Ho detto, però quest'anno è dura. Questa non, insomma, è una parola che non vuol dire assolutamente niente. Non era un'intervista, non gli diamo nessuna dignità di dichiarazione ufficiale. Anzi, poi mi scuso anche per aver arrivato. Però insomma, era dopo uno 0-3. Però la sensazione che ho ricavato, non soltanto per questa minima frase, ma anche dal linguaggio del corpo di Conte durante le due partite che ho commentato contro il Chelsea, è che qualcosa non stia funzionando proprio al 100%, e che al Milan possa interessare non credo ci siano dubbi. No, però la ricostruzione è che ci sarebbero già stati contatti nelle ultime due settimane per la prossima stagione. È un mistero che lui possa voler tornare. Se dovesse succedere qualcosa nelle prossime ore, nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, perché no? Magari anticipare, però questo apre altri scenari di cui discuteremo dopo. 30 secondi riusciamo a fare Roberto? Dai, Roberto da Milano, vai Roberto. Grazie di avermi chiamato, buonasera a tutti voi ospiti, complimenti per la trasmissione. Sì, vai. La domanda è questa, però dico adesso è sempre sul bilico, no? Di Montella, no? E quindi perché non provare a lanciare i giovani, perché tanto la vecchia gestione, i giocatori della vecchia gestione hanno fatto meglio di questi non arrivati, anche perché bisogna il tempo di mangiarmi. Quindi alla fine se tutto, cioè se le cose vanno male pagherà Montella. Sì, ti rispondo io però Roberto, perché quando tu cominci a lanciare i giovani vuol dire che la stagione è finita e qui mancano almeno 27 partite di campionato e il Milan non è nelle condizioni di mettere i remi in barca. Questo almeno è il mio pensiero. Allora abbiamo il traffico, poi arriva Francesco Guidolin, se ne va. Pierluigi Pardo, vi saluto ragazzi, vi abbraccio forte, vi ricordo il tema, insomma sì, la notizia con la quale abbiamo aperto, abbiamo cioè il sorpasso è completato. 5-4 Capuano, da tanto tempo non fa più quei quiz spocchiosi con i quattro assi, i tre, così anche questa settimana Pardo vince la prossima. No, cambiano tutto, sentiamo domani alle 2, sì. Pardo, dai, mi traffico raccomando. Tutti convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. 0-0 Atalanta Spal, quindicesimo, 0-0 Chelsea Manchester United, partita o meno primo tempo finito pochi istanti fa. Saluto e ringrazio Francesco Guidolin. Ciao mister, buonasera. Ciao mister. Ciao. Due volte che sento Guidolin mi viene voglia di parlare di tutto fuorché di calcio. Parliamo di Milan, dai, no, parliamo di Milan. Noi abbiamo rilanciato prima l'indiscrezione, viene da Londra, questi contatti tra il Milan e Conte per la prossima stagione, però c'è da restare sull'attualità. Che l'attualità racconta di una serata in cui forse è arrivato il momento di tirare una riga e capire come si continua. Perché io sono di questa opinione, voglio partire da qui con Francesco Guidolin, è che non necessariamente questa sera si debba guardare il risultato. Cioè, se il rapporto fra il Milan e Montella è un rapporto solido, si può andare avanti anche con un pareggio. Se non si sopportano per mille motivi, hanno visioni diverse, forse anche caratteriali, ragazzi, magari si può anche voltare pagina, eh? Non so, Francesco. Ma io questo proprio non lo so, io posso dire soltanto che secondo me il Milan è in una fase di costruzione, cambiare quasi totalmente la squadra e pensare di ottenere un risultato come arrivare tra i primi tre o quattro vuol dire pensare di fare un miracolo, perché è vero, hanno preso dei buoni giocatori, degli ottimi giocatori, ma bisogna metterli insieme. E questi giocatori hanno bisogno di vivere una storia comune che è fatta di passaggi, cioè non solo vittorie, non solo sconfitte, oppure sconfitte e vittorie che fanno cementare, crescere, capirsi, condividere, conoscersi, tutte queste cose qua. Quindi per me il più grande nemico del Milan in questo momento è la fretta e l'ansia. Fretta e ansia, però sono stati spesi molti soldi, Francesco. Io con te avrei una voglia pazzesca di parlare di Sagan, ma Tralascio e parlo di calcio. No, comunque, fretta sì, però sono stati spesi molti soldi. Abbiamo detto molte volte, è stato fatto un all-in per arrivare in zona Champions League. Non mi pare che il Milan possa più arrivare in Champions League data la struttura del campionato, no? Ma secondo me sarebbe, un miracolo. In zona Champions League ci arriveranno squadre come la Lazio, che non arriva più avanti, che però ha una storia comune, perché giocano insieme da più di un anno, si conoscono sempre meglio, l'allenatore può sviluppare meglio il suo metodo di lavoro, gli esperimenti che ha fatto prima adesso sono concretezza, e quindi è questo. Il Napoli che arriverà a vincere lo scudetto lo celebrerà molto vicino, perché ha la storia comune dell'anno scorso, con gli stessi giocatori, lo stesso allenatore, che però ha la consapevolezza domenica dopo domenica di essere sempre più forte e di essere al pari della Juventus, perché questo è vero. Quindi non ti sorprende che Montella continui a cambiare? Cioè non è un capo d'accusa, diciamo, se nell'ipotetico processo a questo momento del Milan, cioè Montella cambia, è fisiologico. Molti dicono Montella continua a cambiare perché non ci ha capito niente. Sì, allora il nostro lavoro è abbastanza strano da questo punto di vista. Allora, quando uno cambia molto e vince è un genio, perché non dà mai punti di riferimento agli avversari. Quando uno cambia molto e non vince è in confusione. È difficile starvi dietro, è difficile. Un allenatore cambia perché pensa che durante la settimana e fede durante la settimana delle cose che lo mettono nella condizione di cambiare. Quindi io darei fiducia a Montella, perché è un ragazzo preparato, un ragazzo con le spalle larghe e purtroppo, come tutti noi, ha bisogno di un po' di tempo. Sì, ma c'è una cosa che mi manda i pazzi, Francesco. Cioè, io se fossi Montella agirei alla Spalletti, no? Ne battezzi 11, il modulo che decidi tu, quello in cui ti senti più sicuro, cioè casa tua. 11 giocatori giocano un mese, gli 11, e poi vediamo, tiriamo le somme, mi cacci via, non mi cacci via, funziona, non funziona. La parola chiave sarebbe semplificazione. È logica la tua considerazione, però bisogna essere dentro lo spogliatoio, dentro il campo di lavoro, e questo noi non lo siamo, e quindi non possiamo esserci, quindi non mi sento non lo farei neanche lo stesso, ma non mi sento in grado di giudicare. Sì, di certo non è facile allenare con il peso di quelle aspettative e secondo me anche con il peso di alcune critiche che sono state fatte in maniera palese e non da fuori, da dentro, perché le parole di Fassone le abbiamo sentite, quelle di Mirabelli in un paio di occasioni le abbiamo sentite. Non è semplice, anche se si ha esperienza come Montella. No, assolutamente no, perché forse sono state create troppe aspettative in estate con questo mercato sicuramente importante, sicuramente fatto molto bene, perché si pensava che pronti via si vince subito perché abbiamo speso i soldi, perché abbiamo preso giocatori importanti, ma purtroppo, ripeto, non è così, non potrei dire non è sempre così, perché a volte funziona anche così, ma nella maggioranza dei casi non funziona così. Ci vuole tempo, un po' di pazienza e soprattutto condividere, conoscere, capire, sviluppare, lavorare, tante cose. Sì, analizzare anche quando si perde. Io non ci sto, posso, io non ci sto dentro. Francesco, non ho capito. No, io non ci sto dentro, devo fartela la domanda, non ne la faccio. Allora, sportivo dell'anno, Sagan, Messi o qualcun altro? Non ce la faccio, scusami, con pardon. Beh, Messi e Sagan sullo stesso livello, direi, poi non so cosa decideranno. No, scegliene uno, Fra. Beh, io scelgo Sagan perché è la mia passione, perché Messi ha vinto 1000 palloni d'oro, perché insomma un premio lo può anche lasciare. Ma non so, io scelgo Federer, visto che tu scegli Federer. Io scelgo Federer. No, io mi prendo Sagan perché quello che ha fatto lui quest'anno è qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia. Ci sta. Ok. Hai buone sensazioni su Italia-Svezia? Ma io direi di sì, Noi siamo, secondo me, come scuola, tradizione, palmarès, cose che forse contano fino a un certo punto, ma secondo me siamo più forti della Svezia. Poi sotto pressione noi rendiamo al meglio, e questo è un altro dato di fatto. Quindi io sono fiducioso e penso che l'Italia passerà. Ti faccio una domanda scomoda a proposito di pressione, perché è una cosa di cui si è parlato molto nelle ultime due soste, e cioè se Ventura ha le spalle abbastanza larghe per quella pressione lì, che è diversa da quella di un club, di una retrocessione, di una zona Europa League da inseguire, è qualcosa di più. Ma certo che è qualcosa di più, immagino, perché non so, ma immagino che sia qualcosa di più, penso di sì. L'esperienza, l'età, insomma, le conoscenze, le competenze, io penso di sì. Comunque al mondiale ci dobbiamo andare, ragazzi, cioè al mondiale ci dobbiamo andare, perché prima ha chiamato uno dicendo meglio star fuori, scherziamo, che poi si cambia tutto. Ma di che cosa state parlando? Al mondiale bisogna andarci. Noi questa sera guardiamo fino alle 22:31 Sassuolo-Milan, poi parliamo di Montella, ci dividiamo, poi da domani mattina testa giù, si pensa al mondiale, perché per 8 giorni c'è soltanto Italia-Svezia. E salutiamo gli amici svedesi. Grazie Francesco. Ciao mister. A voi, grazie. Ciao. Grazie a Francesco Guidolin, ma chi se ne frega dei cambiamenti? Noi dobbiamo andare al mondiale 10-13 novembre, anzi faremo una grandissima settimana di avvicinamento. Stai scherzando? Al doppio spareggio mondiale. Bisogna andare a tutti i costi al mondiale, non capisco l'ascoltatore di prima perché autoflagellarsi sperando di non andare al mondiale in nome di cosa? Ma sì, è una delle nostre caratteristiche, ci sarà anche chi spererà di star fuori. Allora, vi facciamo sentire le parole di Montella ieri alla vigilia, prima di Sassuolo-Milan, con anche qualche spunto interessante. Intanto l'Atalanta è in vantaggio, 24esimo minuto, 1-0 sulla spalla, il gol l'ha fatto Cristante. Montella, poi torniamo. Confermeresti a prescindere Montella sulla panchina del Milan? Io sono l'allenatore del Milan, credo, ora c'ho ancora un altro anno e mezzo di contratto, forse di più, perché ho voglia di allenare, mi sento coinvolto in questo progetto tecnico sempre di più e sono convinto che lo possa portare avanti, ma non è che mi devo auto candidare di qualcosa che è già mio, qualcosa di più. L'appuntamento con te, visto che tu parli con Marco Fassone, mi assimiliano Mirabelli, è per venerdì 17, vigilia di Napoli-Milan. l'appuntamento di cosa? Per la conferenza stampa. Ah, no, io non sono superstizioso, quindi va quindi bene. No, facciamo venerdì 17. Tu hai parlato con Marco Fassone perché faremo mille intrecci, indipendentemente. Carlo, non ti sto capendo. Indipendentemente dalla partita, Vincenzo arrivare? Montella sarà l'allenatore del Milan. Ecco, andiamo. Questa è la premessa peggio, quasi peggio di quella di Furia. Sì, fino a prova contraria, sì. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20. Mi manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Convocati. Hanno fatto la loro partita in maniera corretta, hanno tentato di giocarla per vincerla sempre, è venuto fuori una partita vincente. Noi abbiamo sbagliato qualche cosa di più di quello che sbagliamo sempre, per cui siamo stati costretti, insomma, a questo pareggio. Questo Spalletti oggi dopo il pareggio con il Toro, saluto Ciccio Graziani, ciao Ciccio. Ciao, Ciccio. Qua. Ciao a tutti. Allora, chi ha vinto il confronto a distanza tra Icardi e Belotti, 0-0 loro due in quanto a gol segnati? Direi pari in tutto, pari in tutto, forse con un po' più di precisione Icardi poteva essere un pochino più determinante. Belotti ha lottato molto, ha rincorso, ha lottato per la squadra, ha avuto pochissime occasioni e quindi non ha potuto incidere in questa partita. Sì, oggi ai Cardi mancava il timing, quello che si dice nel tennis, cioè arrivava sempre sulla palla un attimino sporco, perché ne ha avute sì. Due o tre di occasioni buone. È vero, una tra l'altro deviata dalla difesa del Toro, un tiro fortissimo dal limite. Ha avuto qualche altra buona palla, ma non l'ha mai presa bene, quindi non è mai, anche lui non è mai stato determinante oggi. Senti, Belotti è pronto per la nazionale? Prontissimo. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto molto, ripeto, non era la partita più giusta per lui, perché di occasioni giocate, poche occasioni importanti, ce ne sono create poche. La difesa dell'Inter è sempre molto attenta, Skriniar un gigante, però ha lottato. Ha impegnato lo stesso la difesa, l'ha messo un po' in apprensione, anche se poi, ripeto, non è stato determinante. Allora, io questa domanda la faccio, aspetta, perché vi faccio sentire che cosa ha detto Mihajlovic dopo la partita a proposito di Belotti. Mihajlovic. Belotti sta bene, ce lo consegnate per il doppio spareggio con la Svezia in forma, no? Diciamo sta bene perché non sente più dolore, però fisicamente ancora non sta bene, perché come detto la settimana scorsa un Belotti in forma avrebbe fatto 2-3 gol, anche oggi ha avuto 2 occasioni, ha avuto qualche ripartenza e tutto, Belotti in forma l'avrebbe fatto più male, però comunque lui è fondamentale per noi, per il suo modo di giocare, speriamo che vai in nazionale, che va tutto bene, ecco. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allarmarci se il suo tecnico dice questo? No, allarmarci no. È chiaro che quando si viene da un infortunio è normale che la forma non la riprendi la domenica successiva. Ci vuole qualche partita. Però non credo che la domenica scorsa abbia sbagliato dei gol perché non sta bene fisicamente, e la stessa cosa vale per oggi. Le occasioni purtroppo sono state poche, e quelle poche non ha avuto neanche... La necessaria fortuna, a dir la verità, perché poi ci vuole anche un pizzico di fortuna tante volte quando calci in porta. Ragazzi, domanda ingenua che faccio a tutte e due: perché l'Inter ha sprecato questa occasione? Perché il Toro oggi ha fatto il Toro, oggi mi è piaciuta questa squadra, ha lottato, rincorso, ha concesso poco, ha giocato quasi alla pari, e poi ha giocato con carattere, con personalità, con aggressività, e l'Inter credo che oggi non credo che sia rimasta stupita, però un po' sorpresa da questo Toro, sì, perché ha fatto una grande prestazione. E secondo me ha fatto una prestazione che forse in questa stagione ha fatto poche volte il Toro, per intensità, per capacità, no, sono le cose che capita. Io ho trovato un Toro veramente oggi notevole, sopra le righe. Sì, dopodiché l'Inter non è da scudetto, non so se condividi, Ciccio. In parte, credo che per essere da scudetto debba avere qualche alternativa più forte, diciamo così. Davanti sono molto molto molto temibili, però poi Spalletti deve essere bravo, che quando ingabbiano un po' la fase offensiva c'è da trovare delle soluzioni. La soluzione tante volte è quella di far entrare, secondo me, Eder prima, o addirittura farlo giocare dall'inizio insieme ai guardi, sacrificando magari una volta o Candreva o Perisic. Per cui deve cambiare qualcosa, però l'Inter, se a gennaio prende ancora un paio di giocatori, rinforza questa squadra dal punto di vista tecnico, per me può lottare per vincere lo scudetto, anche per un altro motivo: non fa le coppe, e vi assicuro che non fare le coppe sono 4 punti in più in classifica alla fine dell'anno. Sono d'accordo. Interroghiamo Graziani sul tema capire del se li ha già presi 4 punti in più o no. Sì, anche quello. Allora, tema del giorno. Io, insomma, dibattevo con il qui presente Capuano, con Pierluigi Pardo, che è andato via, Ciccio, sì, sul fatto che tutto sommato il Napoli, per le sue condizioni, per la partita della settimana, per l'infortunio di Gulam, per Mertens che si trascina una gamba, per una stanchezza fisiologica, non sono in tanti. Tutto sommato, oggi, visto quello che è successo con l'Inter che pareggia in casa con il Toro, con la Juventus che fa una fatica pazzesca a battere Benevento, con la Roma che fa una grande impresa a Firenze, due squadre che vicino al cuore ti stanno, però il Napoli, tutto sommato, il punticino preso a Verona deve tenerselo stretto. Anche perché in altre circostanze, in altre stagioni, era una partita che avrebbe perso. Il Napoli ci ha abituato troppo bene, ha abituato il calcio italiano forse troppo bene, la squadra che vince e convince, crea molte occasioni, è fortissima dal punto di vista visivo, è un piacere vederla. Beh, dopo le fatiche degli ultimi tempi, una piccola battuta d'arresto generale ci può stare, anche perché oggi tanti calciatori hanno reso effettivamente al di sotto delle loro possibilità, ma è normale, c'è un po' di stanchezza fisica, stanchezza mentale, e una partita storta può capitare, ma il vantaggio che in questo momento ha il Napoli è che non è soltanto il punto in più in classifica, ma è il fatto che queste partite l'anno scorso l'avrebbe perse, quest'anno le pareggia, quindi si può guardare il bicchiere mezzo pieno, secondo me. Sono d'accordo. Sì, la faccia di Sarri diceva una cosa diversa, al di là delle parole. La faccia di Sarri, al di là delle parole, diceva: abbiamo buttato via 2 punti per mille ragioni, compreso l'ostruzionismo del Chievo come ultima, però abbiamo buttato via 2 punti in questo campionato, sono dei lussi che si possono permettere in pochi. Oggi abbiamo visto la Roma rientrare pienamente nella corsa scudetto. Lo chiedi tu, Giovanni Graziani, se la Roma è da scudetto? È da scudetto la Roma? La Roma è da scudetto, certamente sì. Ha perso un pochino di tempo, le due sconfitte subite, quella con l'Inter gridava vendetta, anche se poi l'Inter tutto sommato nelle occasioni che si era create l'ha vinta anche meritatamente, la Roma che è stata sfortunata oppure poco concreta davanti, però contro l'Inter per 70 minuti ho visto una Roma straordinaria all'inizio di stagione, con il Napoli l'ho vista in grande difficoltà, il Napoli d'altronde mette in difficoltà tante squadre, quindi in una partita secca può succedere che mette in difficoltà anche la Roma, però la Roma è una squadra che alla lunga giocherà per vincere questo scudetto, perché tecnicamente è molto forte anche in tutti i reparti, reparto difensivo, reparto di centrocampo, ha delle alternative straordinarie davanti, quando recupereranno anche questo Schick sarà ancora più difficile contenerla, quindi ha questa partita da recuperare che non è facile contro la Samp. Ma la Roma è lì, insomma, è tra le candidate. Sì, e sono tante. Rispondo a un amico che dice che ce l'abbiamo su con l'Inter. Cosa significa se ha già fatto i 4 punti in più? Beh, significa che l'Inter sta correndo a ritmi da record e virtualmente oggi è quarta, quinta in classifica, il che è un paradosso ed è una maledizione, credo, ma non solo per l'Inter, vale per tutte. Ricordiamoci che una di quelle 5 starà fuori dalla Champions e sarà lo spartiacque tra una stagione deludente e una stagione comunque positiva. È vero, l'Inter è andata in pari con la fortuna, anzi di più. Oggi ha colpito l'ottavo palo, l'ottavo legno, ne ha subiti 7, quindi entra nel novero delle squadre che ha il saldo positivo, così diamo soddisfazione a tutti i nostri amici tifosi dell'Inter. Mi voglio pigliare gli ultimi due minuti con Ciccio Graziani invece per proiettarci avanti. Voglio chiedergli se nella chat dei campioni dell'82 su WhatsApp che si dice di Italia-Svezia. Si dice che ci stiamo organizzando per poter essere a San Siro ospiti della federazione per una presenza importante e che magari porti fortuna a questi ragazzi che ne hanno davvero bisogno, perché in due partite devi essere bravo ma anche un pizzico fortunato. Ecco, noi vorremmo portare la nostra presenza a San Siro con un pizzico di fortuna. Mi piace questa cosa, bellissima. Ci stiamo organizzando, ragazzi. Bellissimo, mi piace questa cosa, perché sempre i grandi del passato dovrebbero essere presenti alle partite importanti di ogni sport, squadre di club, nazionali. È una cosa che mi piace moltissimo. Avventura è quindi... il CT giusto? Anche per reggere questa pressione, dai. Vediamo. Guarda, io credo che Giampiero sia un professionista bravo, serio. Ha ottenuto buonissimi risultati nelle squadre in cui ha lavorato. È uno che quando lo vedi lavorare è molto pignolo, scrupoloso, dà il suo lavoro. La realtà è che lui non ha capito, secondo me, una cosa: in nazionale non si allena più. Si gestisce, si seleziona. Allora tu devi prendere i migliori e farli giocare insieme. Cosa comporta questo? Se tu, faccio un esempio, mi convochi Insigne e Candreva e poi me li fai giocare in maniera diversa da come giocano nella loro squadra di club, tu penalizzi te stesso e penalizzi i calciatori. Se invece li prendi i migliori, li assembli, li fai giocare, però li devi far giocare nel suo ruolo, nel ruolo in cui giocano nelle squadre di club. Sì, però non è facile, perché non è facile giocare mezzala, non va bene. Però non è facile, Ciccio, perché voglio dire, probabilmente giocheremo col 3-5-2. Ad esempio, nel 3-5-2 Insigne non ha posto. Come si fa? È un peccato mortale. Si fa a non far giocare il miglior talento italiano, quello che sta rendendo di più in questo momento? Hai risposto tu. Se io faccio il selezionatore, io faccio giocare Insigne, perché in questo momento Insigne, uomo contro uomo, è devastante. Quindi vai col 4-3-3. Faccio il 4-3-3, esatto. Faccio un 4-3-3 e metto Candreva da una parte, metto Insigne da quell'altra e metto Belotti centravanti. 3 centrocampisti e 4 in difesa. Prendo i migliori, li faccio giocare insieme, perché il campionato mi dice che questa è la realtà e questa io prendo. Ma se io Insigne, per far giocare Belotti e Immobile, lo sacrifico a fargli fare un ruolo e un comportamento diverso da quello che lui fa nella sua squadra di club, io rischio di penalizzare la nazionale e penalizzo Insigne. Ecco la scelta che devi fare. Anche se il 3-5-2 te l'avessero chiesto i senatori e tu ti intendi di quello spogliatore. No, se poi me lo chiedono i senatori, allora proprio faccio il contrario. Perché il selezionatore... Giochi col 2-5-3. I selezionatori non mi devono imporre niente. I selezionatori devono ascoltare quello che gli dico. Io ascolto, magari faccio una chiacchierata. Sì, però non stai fuori dalla porta, diciamo. Ma no, assolutamente. Sulle decisioni, guai se ti fai prendere la mano, non esiste. Ecco, faccio un esempio. Quando giocavo io in nazionale, a volte con Bearzotti nella disamina della partita, lui diceva delle cose. Però poi ci diceva: ragazzi, di quello che io vi dico, siete convinti? Perché se siete convinti andiamo avanti, se no ditemi voi qualcosa. Ma c'è qualcuno che ha mai alzato la mano? No, prescrizione, si può dire. No, Allora, c'è stato, quando noi abbiamo giocato contro l'Argentina, Bearzotti disse: marcare Maradona a uomo potrebbe essere peggio che non invece avvicendarlo tra Gentile e Oriali. E allora a un certo punto loro dissero, lui disse: cosa ne pensate voi? Gentile alzò la mano e disse: Claudio, mister, si fida di me, lo marco io. Se io limito Maradona, noi abbiamo dei grandi vantaggi. E Bearzotti disse: ok, Gento, Maradona lo prendi tu. Tanto per fare un esempio molto semplice. E non è andata malissimo. Non è andata assolutamente male. In tempi moderni, molto probabilmente il Gentile giocava 15 minuti, però a quei tempi ce lo potevamo permettere. Poi c'era la VAR e quindi lasciamo stare. C'è ancora la tibia di Maradona sepolta da qualche parte al Sarriá. Possiamo anche scherzarci un po', no, però questa è la settimana che sull'Italia non si scherza. Io lo dico, la apro ufficialmente oggi, dobbiamo ancora sopportare Sassuolo-Mina stasera. Siamo tutti proiettati su Italia-Svezia. Ciao Ciccio, ciao, grazie. Ciccio. Ciao, un abbraccio a tutti, a presto. Io pagherei per essere inserito in quella chat lì di WhatsApp, anche se ovviamente non ho nessun titolo. Sei il campione del mondo. Allora, ha segnato Morata, intanto. Decimo minuto, Chelsea 1, Manchester United 0. Un bellissimo gol di testa di Morata, tra l'altro. Bello, un bello stacco, palla sul secondo palo, imprendibile. Parliamo proprio di Premier League adesso, raccontandovi anche cosa ha fatto oggi il Manchester City. Ci fermiamo, il traffico, torniamo subito. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Convocati. It's not important the relationship between the coaches. He's an opponent and I'm an opponent for him. And after the game it will be the same. I have respect for his job. He must have respect for my job. And stop. Insomma, Conte ha rispetto del lavoro di Mourinho, ce l'aveva prima, ce l'avrà dopo e stop. E intanto lo sta battendo 1-0, 61 minuti sul cronometro. Stiamo seguendo la partita su Sky Sport, Chelsea 1, Manchester United 0. 1-0 è anche il risultato in questo momento di Atalanta-Spal. Siamo nei secondi di recupero del primo tempo e decide fin qui il gol di Cristante al 23esimo. Poi, prima della chiusura, diamo una cascata dei messaggi che ci avete scritto via SMS e WhatsApp. Intanto saluto Paolo Ciarravano. Ciao, Paolo. Buonasera a voi. Io li rispetto un sacco, gli allenatori italiani che parlano l'inglese, rispetto un sacco, però tutte le volte che sento parlare anche Conte, che pure è bravo. The pen is on the table, the cat is under the table. Però insomma Conte si è integrato da questo punto di vista meglio di altri, credo, no Paolo? Molto scolastico, ma comprensibile. Scolastico, però ha preso le distanze a suo modo. Avete fatto bene, secondo me, a mettere mettere questo off sound, a estrapolare questa frase, perché ci dice molto, secondo me, del rapporto tra i due, che insomma tra... come si fa, tra persone molto educate, ovviamente si rispettano in pubblico, ma ci fa capire che non c'è nessun non tipo si amano tanto, di amore a legarli. E insomma anche la partita poi che stiamo vedendo sta rispettando la personalità e il rapporto tra i due allenatori. Io la sto vedendo e credo che sinceramente Mourinho abbia perso un po' di tempo in questa partita, perché l'approccio che ho visto avere alla partita, al di là della marcatura spesso individuale su alcuni protagonisti, è il tipico approccio che Mourinho aveva quando partiva forte in campionato, guardava tutti dall'alto dopo pochi mesi in classifica e giocava gli scontri diretti con 2 risultati su 3. Quest'anno non è così, perché il City sta giocando un calcio in questo momento francamente di un altro pianeta rispetto a tutte le altre. E sinceramente l'approccio che ha avuto lo United, insomma, mi sembra un po' altezzoso, cioè mi sembra un calcolo stavolta poco riuscito, perché poi l'atteggiamento in parte ha avuto anche contro il Liverpool, meno difensivo rispetto alla partita con Liverpool finita 0-0, però insomma Mourinho oggi è sceso in campo a meno 8, Sì, quindi con la necessità di vincere. Sì, però lasciatemi dire la bestialità delle 18:50 di domenica. A me lo United sembra più una squadra da Champions League che non da campionato inglese. Il contrario, il City, che certamente è più forte, che certamente gioca in maniera meravigliosa, però mi dovessero dire chi tra United e City potrebbe vincere la Champions League, così sto parlando in astratto, io mi prenderei i Red Devils. Ma sicuramente è una squadra che sta avendo dei problemi sulla corsa lunga, quindi non diciamo sull'obiettivo immediato in campionato, perché ha cominciato a perdere qualche punto di troppo con le piccole. Ovviamente la sconfitta contro l'Huddersfield è un campanello d'allarme importante per per Mourinho. È sicuramente, per tornare al vostro discorso, una squadra molto difficile da battere nell'uno contro uno, nel testa a testa, nella sfida di 180 minuti, quindi è una definizione che secondo me ci può stare. Il problema è che secondo me lo United deve capire che in questo campionato, insomma, certe partite, rinunciando, non dico a vincere, ma pensando che il risultato di parità sia risultato positivo, poi alla fine ti possono togliere fuori. Oh, intanto, se possiamo ricavare un'altra sensazione da questi 65 minuti, è che se anche non erano tanto d'accordo, i giocatori del Chelsea comunque continuano a giocare anche per Conte. Perché se no non si fa una partita così, non la lotti, non la combatti, non sei davanti, non so se sei d'accordo oggi. Io francamente non ho mai avuto nessun dubbio, cioè non solo ti dico di più. Gli inglesi qualcuno di più, Sì, ma allora essere in disaccordo su alcune metodologie, perché poi di quello si tratta, è un fatto. Che può riguardare alcuni, per esempio non Fabregas, l'ho detto chiaramente in settimana. Avere avuto dei problemi come quelli che ha avuto Conte con David Luiz, ma un fatto personale, è un altro fatto, quindi quello non si discute. Però insomma, in Inghilterra non funziona così, cioè tu puoi essere in disaccordo col tuo allenatore ma non gli giochi contro, detto fuori dai denti, e così non sta accadendo. Secondo me non è mai stato così, quindi io francamente non sono sorpreso, non sono stupito. C'è qualcuno che forse non è pienamente convinto della gestione dei conti in questo momento dentro lo spogliatoio, forse anche qualcuno in società, però poi si rimane tutti dalla stessa parte e si gioca per vincere. Non rimonti la partita che hai rimontato contro il Watford senza essere, come dire, tutti compatti verso un unico obiettivo. Il Watford ha messo in difficoltà il Chelsea, penso che la partita forse non meritava di vincerla, però l'ha vinta perché la squadra l'ha giocata in quel modo, e insomma anche oggi è andata così contro la Roma, complimenti alla Roma. Ma non è stato un Chelsea ammutinato che ha perso l'Olimpico. Quindi se dobbiamo rivedere Conte in Italia dobbiamo aspettare l'anno prossimo, lo dico perché ne abbiamo parlato. Io ho questa sensazione, francamente. Notizia in discrezione rilanciata da Sky nel pomeriggio, contatti per l'anno prossimo, ma se si aprisse una finestra potenziale anche magari per anticipare, finestra che significa ovviamente Conte licenziato da Chelsea e Montella licenziato dal Milan, questa è la finestra. Però mi sembra difficile mandare via Conte, per esempio, anche alla luce di questi 67-68 minuti. Sì, diventa molto difficile. Grazie Paolo. Ciao, ovviamente Paolo. La Premier su Sky prosegue perché tra 7 minuti c'è il Di Canio Premier Show, c'è Del Piero, c'è Gianfranco Zola. Ce n'è di gente, c'è soprattutto il finale di questo Chelsea Manchester United che è su 1-0. 67 minuti. Allora, avevo promesso qualche messaggio, così lo commentiamo nell'ultimo minuto. C'è chi dice che le squadre italiane nelle coppe vanno bene, ma solo per gli stranieri, la nazionale è poca cosa. Medeo, io non condivido. No, secondo me le coppe europee non sono una cartina tornasole attendibile per valutare lo stato del calcio di un paese. Sì, però dicono anche che da un po' di competitività l'abbiamo recuperata. Se non c'erano Gulli e Van Basten, magari il Milan non diventava il Milan che vinceva la Champions League, ma sono discorsi abbastanza filosofici. Poi c'è chi si lamenta che il Napoli va elogiato sempre a prescindere. La Juve oggi non ha giocato male col Benevento, scrive questo amico, ha preso due pali e fatto 9 occasioni. Sì, però al 93esimo era lì difendere su un calcio d'angolo, e queste sono cose che alla fine restano nella retina dell'occhio. E poi c'è chi dice il Sassuolo è 17esimo, se il Milan testa la forza col Sassuolo vuol dire che è messo male. Il Milan è messo male, è un dato di fatto, voglio dire. Mi sembra che avete stato a sua forza anche con altri avversari, compreso Genoa in casa, e non mi sembra sia andata benissimo. Poi anche la K non è. Ricorda che secondo lui Juve e Roma sono le uniche squadre ad avere rose per fare tutte e due le competizioni. Il Napoli gioca meglio, ma è corto e alla fine pagherà questo. Vediamo. Oggi intanto ha lasciato due punti a Verona. Noi ci salutiamo qui. Atalanta 1, Spal 0. Siamo nell'intervallo gol di Cristante. Il Chelsea avanti 1-0 con il Manchester United. 22 minuti alla fine della partita. Domani alle 14 torna tutti convocati con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi ci risentiamo domenica e sarà la vigilia del ritorno tra Italia e Svezia. Ciao, ciao a tutti. Ragazzi. E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!